Se in ogni TG che parli veloce, qualche pausa studiata e ti si spezza la voce. Questa gente abituata a solo un altro scoop in diretta. La nostra vita, tu non dargliela in fretta. La nostra passione, passata con gli anni. Io lavoro alienante ed io ne ho fatti di danni. E chi l'avrebbe mai detto? Ora mi chiamano mostro, il reduce degli anni di piombo. Ma ero un bravo ragazzo, il partito perfetto. E che cazzo, lavoro, cucina, cesso, qualche volta a letto. Tu che dormi di sopra, io che sogno la rivolta, progettando una bomba, che questo mondo soccomba nella merda totale di questa vita stramba. Io che salgo le scale come strafatto di bamba, ti sussurro alla bocca che sei la mia bimba. Ci rifugiamo nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Ci rifugiamo nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sei riuscita a cambiarmi, io non ti ho cambiata, lo sai. Con te si discute d'amore, ci sono distanze, non ci sono paure. D'altronde banca e famiglia danno rendite sicure. E tu sei la donna che è mia, che adesso in fuga con un foglio di via. Sono il figlio di questo stato malato, il meno voluto. Io mi svegliavo sudato e non volevo rialzarmi, anche se ero caduto. E dietro i microfoni ora c'è uno specchio per farti più bella o per farmi già vecchio. E tu con quel trucco che con me non portavi, la gente si chiede perché non mi bastavi. Ed io che il potere lo scagliavo dalle mani, un amore violento lasciava graffi sui segni. Ed ora i tuoi occhi ti hanno dato un lavoro, occhi assunti da poco, i tuoi occhi per loro. Ci rifugiamo nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai. Ci rifugiamo nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli altri ora ne sappiano niente, dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente. Tu che volevi un anello da portare al dito, farai l'amore per amore o per avercelo garantito. Vivrai con un'amica, con una figlia dei fiori, o con un casanova che ama i suoi genitori. I giorni con te sono stati migliori, io e te soli al mondo perché il mondo era fuori. Ed ora son qui solo con i miei furori. Avevo il meglio ma adesso siamo rimasti soli. Chica, siamo rimasti soli. Ci rifugiamo nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai. Ci rifugiamo nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sei riuscita a cambiarmi, io non ti ho cambiata, lo sai.